Sono Pierluigi Bersani, il ministro per lo sviluppo economico. Liberalizzazione non vuol mica dire fare il comodo proprio. Sulla strada rispetta le regole, rispetta gli altri. Campagna a cura del governo. Ministero dei Trasporti.